Melog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Panini presenta Calciatori 88-89, da oggi in edicola. L'unica raccolta di figurine che ti racconta tutto sul tuo sport preferito. Dai, fai il tuo gol. In Italia strategia si dice risico. Ogni lancio di dado può cambiare la partita. Muovi i tuoi pezzi, scegli i tuoi avversari. Risico, da Editrice Giochi. Allegro Chirurgo, il gioco in cui puoi operare dalla testa ai piedi. Ma attenzione, un errore! Lo stiamo perdendo! Falso allarme! L'Allegro Chirurgo! Operazione Allegria! Da MB! Questa mattina vi chiedo di ripensare ai giocattoli della vostra vita, a come giocavate. Perché è importante, secondo me, ricostruire quella che è stato l'approccio col giocare, che è stata la base del nostro approccio con la vita. Sembra una trasmissione futile, ma Pietrangelo Buttafuoco, che era qui nel suo ufficio accanto a me fino a un istante fa e se n'è andato, sentendo che annunciavo al giornale radio l'argomento di oggi, che avrei voluto parlare del museo del gioco, mi ha detto ricorda che Nietzsche, nelle Considerazioni Attuali, che è una raccolta di saggi dal 1870 alla fine del 1870, dice una frase importante sul gioco. Sono andato a cercarmela. La frase è: maturità dell'uomo significa aver trovato la serietà che si metteva nel gioco da bambini. Noi saremo maturi quando mettiamo nella vita la stessa serietà che avevamo quando giocavamo da bambini. E questa frase per me è stata illuminante. Improvvisamente mi sono reso conto quanto fosse importante per me il gioco quando ero piccolo. Quanto impegno mettevo, quanta attesa mettevo, quanto mi arrovellavo sul gioco. L'argomento nasce da una pagina del giornale di oggi di Matteo Basile, che parla di un museo importantissimo che è alla periferia di New York, che dal 68 raccoglie tutti i giochi dell'umanità, giocattoli concreti, materiali analogici e poi anche i videogiochi, i giochi elettronici, che cominciano a entrare nella nostalgia rispetto alle versioni attuali, gli Space Invaders, Super Mario, Pac-Man, tutti questi giochi che ormai la gente se li vede con un briciolo di tenerezza, perché fanno parte di un passato. Ecco, con cosa avete giocato voi? E soprattutto, immaginiamo che vogliamo costruire un museo nazionale del giocattolo. Abbiamo fatto una ricerca. In Italia ce ne sono già una ventina di musei locali che raccolgono giocattoli. Ecco, cosa mettereste i primi 10 giocattoli da mettere nel nostro museo? 800 24 0024. A tra un istante. Melog. Cronache meridiane. Dice che il suo è il videogioco più bello del mondo. Sarà, però fa solo giochi. Io ho scoperto una bomba. Commodore VIC-20. Commodore VIC-20 fa di più, perché è un vero computer. Sa fare un sacco di videogiochi, tutti nuovi e divertenti. Ti insegna la lingua del futuro. Serve in casa. A scuola con lui diventi super. Oggi puoi scegliere il favoloso Commodore VIC-20 o l'incredibile Commodore 64. 800 24 0024. Se avrete notato qualche titubanza, a me, perché oggi non funziona una cosa per me fondamentale per condurre una trasmissione, è il controllo del pulsante del rosso. Spero lo accomodino presto, perché onestamente è come dire un ciclista va in bicicletta senza catene, senza freni, la stessa cosa esattamente. Allora, abbiamo una sfida lanciata assieme ai nostri ascoltatori. Vogliamo creare il Museo Nazionale del Giocattolo secondo la nostra sensibilità nazionale, quello che voi sentite, l'indicatore medio dell'umanità che è il nostro pubblico. In America l'hanno già fatto, cioè dagli anni 60 al 68 ci sono tutti i giocattoli che generazione per generazione è considerato importanti, dal puzzle, che è un gioco antichissimo, leggo sul giornale, della fine del 700, poi Monopoli, le bolle di sapone, che forse è uno dei giochi più antichi, poi le bambole, poi il risico, poi il frisbee, che andava tanto di moda in un decennio, fine anni 60, primi anni 70, poi del frisbee non se ne fece più niente, lo usa ancora chi fa giocare i cani col frisbee, e poi giochi elettronici. Abbiamo detto che in Italia ce ne sono circa una ventina, almeno dalla nostra ricerca, giocattoli, di musei di giocattoli. Voglio saperlo dai nostri ascoltatori: cosa metterebbero, cosa mettereste voi in un ipotetico immaginario museo del giocattolo? Lucrezia, buongiorno. Sì, buongiorno. Dunque, io metterei una bambola che mi regalarono i miei genitori, era un cicciobello, a mia sorella regalarono il cicciobello classico bianco, con la pelle bianca, insomma, a me regalarono un cicciobello nero. E beh, per assortire le due sorelle, uno bianco e uno nero, ma chi era più soddisfatto? Lei si è sentita penalizzata o gratificata al fatto che lei avesse quello nero? No, sicuramente gratificata, perché era strano, non lo aveva nessuno, non avevo amici che avessero un cicciobello del genere. Poi tra l'altro non so forse se... Forse non ce n'erano più bianchi, le era avanzato uno nero e hanno preso quello. Una scelta, secondo lei, una scelta reale, ideologica, educativa, o una scelta, cioè, c'è solo quello nero, ne volevo due bianchi, e no, mi prendo quello nero. Come la vede? No, probabilmente è stata casuale, perché sennò avrebbero regalato anche a mia sorella il cicciobello nero, perché se vuole essere una cosa educativa avrebbero educato tutti tutte e due. Vabbè, uno bianco e uno nero, poi se li scambiano magari, pensavano. No, assolutamente, no. Ci regalavano sempre i giochi uguali proprio per evitare che litigassimo. Quindi quello forse è stato un ripiego. Però da quello, non so se è stato da quello che è nata poi la mia passione in realtà per il continente africano. Io sono stata in Africa, ho sofferto di mal d'Africa. Ha allevato un bambino nero, quindi da allora è chiaro che gli si è sviluppata, esatto, lei, la curiosità. Questo mi sembra logico. Sì. Quindi lei metterebbe il cicciobello nero, che è una scelta. Sì. Esistevano, diciamo, che nella generazione che lei cita, che anni erano più o meno? Io sono del 75, quindi... Ecco, sì, diciamo, anni 70. C'era l'idea della variante bianca e nera dei bambolotti. In realtà non cambiavano molto, era solo dipinto, esatto, scuro. Identico. Non è che cambiavano i connotati. No. Era uguale, solo che era nero. Carino, sì. Identico agli altri, uno bianco, uno nero. E sì. Andava molto, serviva per diversificare il mercato, perché un bambino ne aveva uno bianco, ci voglio anche quello nero, lo vedeva, e quindi era carino. Va bene, il cicciobello nero lo metterebbe l'ascoltatrice Lucrezia. Vediamo se riusciamo a stabilire una classifica. Franco, buongiorno. Salve, io vorrei portare la mia esperienza di quando ho 8 anni. Cominciamo a definire gli anni, così capiamo un attimo. Come? Gli anni di cui più o meno lei racconta questa esperienza, perché cicciobello nero... 67 anni, era il 1957, l'anno dello Sputnik. Ah, perfetto. No? Mia madrina mi ha regalato un Meccano, e io dopo la terzo modello che ho fatto, perché c'era il libro, no? Come fare il Meccano... Io dopo il terzo modello ho detto, ma perché cacchio io devo fare quello che c'è scritto lì? Io ho cominciato a inventarmeli. Sì, ero anche privilegiato perché ero figlio unico, cioè non c'era nessuno, eccetera, eccetera, no? Il problema qual era? Che siccome mia mamma mi rompeva sempre le balle perché quando doveva fare il gomitolo io dovevo tenere la matassa, allora gli ho fatto col Meccano un affare, così lei si poteva fare da solo. Ah sì, allora spieghiamo, perché abbiamo anche un pubblico giovane che non è detto che sappia. Il Meccano era un gioco che andava molto nel dopoguerra. Erano, diciamo, vari componenti di metallo bucherellati, c'era la piastra, c'era l'ottagono, c'era la sbarra lunga, le rotelle, le pulegge, c'era di tutto. Con delle viti e dei bulloni si costruivano dei primi oggetti tecnologici, che richiamava un po' l'idea della tecnologia. C'era una chiavettina inglese, un cacciavitino, e uno più era ricco, più aveva pezzi del Meccano, poteva sbizzarrire la fantasia, così funzionava. Ecco, certo, ma posso dire solo un'altra, sì, cosa? Ecco, io non mi sono mai fatto male col Meccano, oggi non esiste più, perché queste stupide norme europee, ormai è tutto fuori norma, uno si può far male. E poi la mia nipotina... Si mangiano i bulloni, cioè, diciamo, la scatola delle viti. Ma la mia nipotina di 2 anni c'ha delle cose che oggi sarebbero in teoria passabili, che sono molto molto più pericolose di un Meccano. Io in tanti anni non mi sono mai fatto male, volevo solo dire quello. Lo so, però oggi ci sono delle norme. Il Meccano era bellissimo, cioè, poi c'erano i pezzi elaborati, c'era il cardano, c'erano vari tipi, uno poteva costruire dei veri meccanismi. E accadeva, e lo dico a mia esperienza personale, anche io e mio fratello, che ereditammo il Meccano ai nostri zii, eravamo troppo giovani, era della generazione precedente, costruimmo delle piccole trappole che facevano una piccola esplosione al passaggio di vecchie zie per casa, quindi delle trappole fumiganti, puzzolenti, esplodenti per le zie, e chiaramente forzammo la destinazione d'uso primario. Alberto, buongiorno. Pronto? Buongiorno. Anni e giocattolo da conservare. Sì, io ho fatto l'aeromodellismo per tanti anni, ho iniziato da bambino a 7-8 anni a mettere insieme i pezzettini di legno. No? Che anni erano? Voglio sapere. Perché 1965-66. 65, facciamo così, intanto abbiamo già colto 30 decenni, anni 50, 60, 70. Lei qual è il giocattolo che vorrebbe conservare in un museo, secondo lei? un aeromodello volante costruito da un bambino da scatola di montaggio, quelli che si montano in quattro pezzi con il suo libricino di istruzioni a fianco. Ma quelli di balsa o quelli di plastica? Perché c'erano vari... No, di legno, di legno. Di legno, allora c'era, era molto semplificato, l'aeromodello andava molto con l'elastico, poi è stato soppiantato. Erano o delle striscette di legno semplicissime con le ali di balsa che si costruivano e con l'elastico, lei dice, quelli con l'elastico. Sì, quelli con l'elastico. Era un gioco semplicissimo, volavano, poi si schiantavano, si rompevano e si ricomprava o si aggiustava con la carta gommata o con lo scotch. Lei vorrebbe salvare l'aeromodello, che era l'inizio, volare era considerato ancora qualcosa come privilegiato, non c'era questa diffusione del volo in aereo. Marco, buongiorno. Buongiorno. Io, la mia grande passione sono sempre stati, lo sono tuttora, ahimè, i trenini elettrici. Quindi sì. Quando si parla di trenini elettrici io vado in visibilio. Lei cos'era, Rivarossi o Lima? Io ero tutte e due, nel senso che mi piacevano tutte e due, perché alcuni modelli, Rivarossi era meglio assolutamente. Perché c'erano due grandi scuole di pensiero rispetto al trenino elettrico. Beh, ce n'erano tre in realtà, perché c'erano poi i tedeschi che comunque avevano... sempre un valore però per i bambini se uno da scegliere all'inizio, poi non erano compatibili naturalmente fra di loro. Certo, con Rivarossi, lì ma c'aveva le rotaie che c'era sotto un affare di latta sopraelevate, i trenini Rivarossi non andavano sui trenini lì, ma quindi uno va a fare una scelta come per le piste elettriche. Beh, allora scelgo Rivarossi naturalmente. Rivarossi. Lei trenini elettrici che oggi era una cosa amatoriale per anziani, ma allora il bambino col trenino giocava come un matto, ci passavano ore. Ma io facevo delle cose fantastiche, facevo questi percorsi naturalmente ingombrando la camera di casa e poi per due giorni pretendevo che nessuno entrasse e toccasse nulla. Sì, il problema è che poi finito il periodo di vacanza andavano smontati perché non si potevano lasciare così. No, assolutamente. Infatti. Quindi secondo lei il trenino elettrico è qualcosa che merita perché ha detto molto. Va bene, Filiberto. Sono qua, pronti? Mi dica, diciamo, definiamo il decennio e vediamo il giocattolo da salvare. Dunque, io parlavo degli anni 50, sì. Anni in cui gli esuli in quel di Trieste, da dove arrivo io, avevano a che fare con 10 case, villaggio del pescatore. Io con la scatola del cartone e con le quattro matite facevo il cimena, come dicevano i miei amici, e mi mettevo sulle scale... con addirittura la pila dentro a questo scatolotto. Ah, la lanterna magica costruita in casa. La lanterna magica fai da te, sì. Però appunto con l'aggiunta della pila che serviva allo zio per arrivare per la strada buia. E ancora oggi ci sono vecchietti come me, perché io ne ho 73, che si ricordano di questo gioco che avevamo sulle scale della casa della nonna. Quindi si costruiva una scatola di cartone, si metteva la pila dietro e con delle figure, cos'è, delle silhouette ritagliate nel cartone? No, ecco, io facevo la striscia in carta da lucido perché furbescamente ricalcavo anche disegni d'altri, anche dai giornaletti. Ma quindi era un vero e proprio cartone animato? E l'ho rifatta negli anni anche 90, perché sono da 10 anni in pensione, a scuola media, e c'è stata gente che l'ha migliorata abbinandosi il registratore con la musica e col parlato, e addirittura una, sentivo prima che si parlava anche del meccano, anche lui aveva fatto uso del meccano per far sì che invece di girare le matite e avvolgere lo strip ci fosse proprio il meccanismo a molla del meccano che qualcuno appunto ancora in casa faceva. È un gioco che chiedeva una grande pazienza e anche una certa precisione. Si ricostruiva, diciamo, un pezzetto di pellicola, disegnando a mano, fotogramma per fotogramma, girandolo con due matiti, una parte e una l'altra, si aveva l'illusione del movimento, si muoveva veramente, un piccolo movimento c'era. Delle scene fisse, come se fosse guardare un giornalino a fumetti per l'epoca, solo che aveva l'emozione dell'essere mostrato verso sera con questa luminosità data dalla pila, messa dietro a questa carta da lucido che era, come le dicevo, utile per ricalcare, ma anche veniva colorata e dava la trasparenza per la luce che quindi gli spettatori godevano mettendosi... Sì, che poi immagino fosse quella che chiamavano carta oleata, che era quella per avvolgere, quando si andava dal droghiere, avvolgere la roba, era la carta un po' trasparente, somiglia al lucido degli architetti, però era la carta che si usava, almeno in famiglia si usava quella si comprava dal droghiere per avvolgere la carne, la frutta, la verdura, la pasta e via dicendo. Ci fermiamo un istante, tra poco. Pioneer Investments, leader globale nella creazione di soluzioni di investimento. Vi presenta Melog. Cronache meridiane. Guarda, mamma! Dolce forno Herbert. Che buoni questi dolci! Come sei brava! Mi insegni a fare i dolcini. Con Dolce forno Herbert. Guarda, è facilissimo. Impasto gli ingredienti, verso il tutto nel suo stampino e lo metto a cuocere nel forno. Dolce forno Herbert. Guardiamo come lievita. Controlliamo la cottura e in pochi minuti il mio dolce è pronto. Ora lo guardiamo. Il dolce forno è un altro giocattolo che molti hanno desiderato, non lo compravano perché c'è una lampadina dentro, le mamme avevano paura che il bambino si scottasse, era un fornettino finto con una lampadina, al calore della lampadina potevi fare dei biscottini artigianali, però ricorda molto. Un altro gioco mi viene ricordato da un collega di Milano, è il Simon, che non avevo mai visto. Il Simon è un cerchio di plastica con quattro colori fondamentali, verde, rosso, blu e giallo, si pigiava al centro, i colori si accendevano in sequenza, bisogna ricordare la sequenza esatta. Mi sono accorto adesso, per similitudine sul mio monitor, che è esattamente il logo di Google Chrome. Google Chrome era il Simon, il blu viene messo al centro. Chissà se lo ricorda qualcuno il Simon. Vediamo se c'è qualche altro ascoltatore che ci vuole suggerire i propri giochi. Ho già detto che io voglio dei suggerimenti per un ipotetico museo del giocattolo. Franco, buongiorno. Buongiorno. Buondì, io suggerirei un gioco che ho ancora in tonso, che potrei forse donare, è il Concilia, che è un gioco di società. Concilia si chiama, credo Clementoni o editrice giochi, che era un gioco di educazione stradale con i segnalini, i dadi, si raccoglieva, insomma, fatto un po' sullo stile. Ma che anni erano, del Monopoli? Più o meno, per capire. Anni 60. Negli anni 60, un gioco da tavola in cui c'era il piccolo vigile, poteva. Sì, il piccolo vigile, c'erano i soldi per pagare le multe. Ma un Monopoli applicato all'educazione stradale, ma è un gran gioco. Quindi molto educativo, ma una particolarità è che gioco in tonso perché non ci ho mai giocato, mi piacevano le banconote e una caratteristica secondo me dei giochi è proprio quella che venivano a noia in tempi brevissimi. Beh, i giochi etici rompiano un po' le palle, diciamo la verità. Monopoli, perché è il gioco del piccolo strozzino, può funzionare, ma il Concilia del piccolo educato stradale, mi rendo conto che da bambini oggi i giochi che vanno più, i videogame che vanno di più sono quelli dei criminali della strada. È chiaro che purtroppo, ahimè, il gioco per essere educativo bisogna fare un gran salto mortale per farlo digerire. Grazie Franco, felice. Buongiorno. Spenga la radio però. Cosa metterebbe lei nel museo del giocattolo? Io parlo di un gioco però che non esisteva e che si vendeva, è un gioco che facevamo noi. In pratica un monopattino fatto a legno, invece delle ruote aveva i cuscinetti, quelli che noi prendevamo dal meccanico con le sfere dentro, era completamente fatto a mano, aveva un piccolo ciocco di legno che permetteva di poter ruotare. E con questo noi facevamo altro che le moto di adesso, insomma. Noi facevamo le stesse cose, però mettevamo quattro ruote, facevamo una specie di carrozzone per camminare, sempre con i cuscinetti. Si andava dal meccanico, ci regalava vecchi cuscinetti che erano fantastici. Si andava sull'asfalto, però rischiava. Io lo sento malissimo comunque. Sì, diciamo la stessa cosa si faceva anche con le quattro ruote, dicevo, costruire dei mezzi semoventi, anche delle macchinette con lo sterzo, con uno spaghetto. Quindi la macchina autocostruita metterebbe lei. Aprirebbe una sezione per i giocattoli autocostruiti, perché anche quelli devono esserci, non tutti, c'era una grande fantasia, chi aveva i giochi regalati, quelli che si compravano e chi se li costruiva. Il monopattino o il carrozzone fatto con il cuscinetto a sfera era uno dei giocattoli autocostruiti. Beppe, buongiorno. Buongiorno. Cosa metterebbe lei nel museo del giocattolo? Metterei le biglie. Quelle di vetro? Beh, quelle di vetro sono venute dopo, ma prima, primi anni 50, c'erano quelle di terracotta. Sì, che si rompevano tutte. Bellissime, colorate, sì. Ma che si sbeccavano dopo due giorni. Poi sono arrivate quelle di vetro, bellissime. Che erano già un lusso, erano bellissime, sì. E noi eravamo bravissimi a lanciarle, a colpirle anche a un metro e mezzo di distanza. Quindi mettere d'estate le biglie, d'inverno lo slittino. Lo slittino, anche quello c'era modo di autocostruirlo, sennò lo slittino diciamo. Ma era costruito dal papà, era sì, costruito sì. Dal papà con i ferri sotto, quindi perché noi mica si andava sulle montagnette, andavamo sulle strade in montagna, quindi con la latta inchiodata. Si facevano un chilometro, due chilometri di strada e alla sera buttavamo l'acqua per far gelare la strada e i contadini si arrabbiavano e si buttavano la terra. Anche questa fa parte dell'educazione stradale. Rendavate delle lastre di ghiaccio alle strade dove andava il contadino poverino il giorno dopo, sì, certo, con il suo motom o con la sua lambretta vecchio modello, quindi si schiantava. Bene, Paola, buongiorno. Buongiorno Nicoletti. Sì, prego. Lei si occupa di un vero museo del giocattolo? Sì, io mi occupo del museo del giocattolo di Canneto sull'Oglio, che era il paese in cui c'era la furga, che è stata una famosa industria di bambole italiana. Bambole furga, certo, chiaro. Pronto? Sì, sì. E cosa c'è in questo museo? Ma ci sono... è raccontata un po' la storia del distretto industriale del giocattolo di Canneto sull'Oglio, appunto, perché poi dietro alla grande industria erano nate poi una serie di altre aziende che facevano bambole, giocattoli. Ma io ho una mia passione per un gadget che era si otteneva con il formaggino Milione, che era la mucca Carolina. La mucca Carolina dette lavoro anche lì a una zona per moltissimi anni. Quando finì la mucca Carolina si misero a costruire canottini, galleggianti, cose sempre con la stessa materia, ma fu un'industria fiorentissima. Che effetto fa, diciamo, un centro che la cui economia è il giocattolo, che tutti vivono sull'indotto delle bambole? Ma adesso purtroppo non sì, queste aziende non ci sono più. In altri tempi. Però noi siamo bambine, insomma, noi adesso siamo grandi, ma siamo cresciute proprio in case dove c'erano sempre vestitini, busti da riempire, c'erano un lavoro enorme dietro. Quindi la fabbrica li fabbricava, poi c'era tutto un indotto, diciamo, a Cottimo le prendevano, le vestivano, le rifinivano a casa, sì, le signore. C'erano, la furga ha avuto anche 1000 operaie interne, però poi c'era anche tutta una serie di persone che lavoravano a casa, e quindi tante mamme lavoravano in casa per poter gestire anche la... Ma cosa si faceva a casa? Si montavano, assemblavano le bambole, per capire? Ma no, più che altro come si chiama? Riempivano i busti delle bambole con una sorta di cotone e poi facevano i vestiti. Poi dopo i vestiti venivano portati in fabbrica e indossati alle bambole. Quindi immagino ai bambini che venivano a casa arrivare tonnellate di pezzi di bambola e che la mamma doveva riempire con il cotone. Perché poi aiutavano anche, cioè bisognava così contribuire all'economia familiare, quindi anche il facendo bambino, le bambole. La bambina aiutava la mamma, fermava il filo dei vestiti. Ma questo è uno stralcio. Ma da voi c'è un museo della bambola, quindi, naturalmente. Pronto? Naturalmente c'è un museo della bambola da voi. Sì, naturalmente c'è il museo della bambola, esatto. Ah, grazie, anzi ci ho dato la testimonianza, qualcosa già esiste. Marco, buongiorno. Buongiorno. Io sono dell'84, volevo portare la mia testimonianza in quanto negli anni 90 ho girato più di 50 pubblicità su quei giochi un pochino più conosciuti, tipo le Micro Machine, i combattini. E cosa faceva? Si occupava, diciamo, di pubblicità televisiva? Io facevo pubblicità, sì, mi avevano trovato tramite un concorso e ho iniziato a girare, mi chiamavano continuamente per tutte le pubblicità, anche per l'estero, ho girato diverse pubblicità e quindi vedevo i giochi in anteprima che poi 6 mesi dopo / un anno uscivano e venivano acquistati da tutti i ragazzi. E per me uno dei giochi più importanti è stato il Camper delle Micro Machine. Il camper, le Micro Machine me le ricordo perché... Il camper era stato forse anche per me una pubblicità molto importante, me la ricordo bene, avevo 7-8 anni forse. Ma poteva andare sulla pista le Micro Machine o no? Non era... No, era un camper, sì, era un... No, non poteva andare, no, erano fermi, si apriva tutto, però dentro c'erano tutte le macchinine, era una cosa un po' particolare. Non era, diciamo, era quintessenza. Ce n'erano tanti, tipo anche... quelli dei combattini che erano dei piccoli ometti verdi, tutti erano dei combattenti particolari che chi ha l'età mia se ne ricorda, quindi erano dei soldatini di plastica, poi c'erano le Skiribill, poi c'erano l'Adica Pongo, erano dei giochi particolari. L'Adica Pongo era quello che si facevano le formine con il Pongo? Sì, quelli là, sì. Mi ricordo anche di quel fornetto lì che parlavate prima, di quel fornetto. È il dolce là. Forno. Quello... mi ricordo la macchina del gelato, ho fatto, mi sembra, anche quella pubblicità lì della macchina del gelato. Sì, che poi non veniva mai. Quel fornetto. Non venivano mai come promettevano, perché nella scatola si vedeva chissà quali cose. Era una cosa un po', beh, fatta in famiglia, era una cosa per giocare, non era per fare cose serie. Ci fermiamo un istante, 800240024. Stiamo attingendo al ricordo dei giocattoli dell'infanzia dei nostri ascoltatori per un ipotetico museo del giocattolo. Poi alla fine vi dirò chi ha vinto. A tra poco. Melog, cronache meridiane. Crystal Ball, con Crystal Ball ci può giocare. Crystal Ball, e tante cose da inventare. Crystal Ball, non ci vuol niente da soffiare. Su gioca un po' con Crystal Ball, poi Crystal Ball se vuoi si attacca. Ecco, ci sono dei giochi che poi sorprendono, che hanno lo stigma dell'eternità. Crystal Ball, questa è una pubblicità di fine degli anni Ottanta, mi dicono ancora esperti informatica, sarebbe poi il professor Chiappini, che ancora esiste, ce l'hanno le sue figlie. Era una pasta strana colorata, ci si metteva una cannuccia e soffiava, si facevano dei palloncini colorati, ma che esplodevano e rimanevano attaccati alle dita. Era più quello che si mangiava che quello che si gonfiava, però evidentemente c'era un suo fascino, perché ancora esiste. Noi stiamo cercando di costruire oggi un immaginario museo del giocattolo basandosi sulle memorie dei nostri ascoltatori, e devo dire che c'è uno scenario abbastanza variegato. Partiamo finora le cose che abbiamo detto, dalle bambole, ma sempre con un tono particolare, il cicciobello nero, che era già una particolarità, una scelta. Il meccano va moltissimo, l'ha rievocato un ascoltatore, ma stanno scrivendo tantissimo. È un gioco di costruzione attraverso viti e bulloni. Poi i trenini elettrici, che ripargono i treni elettrici, gli aeroplanini, il cinema autocostruito, e poi diciamo tutti i giochi da tavolo, che però molte volte avevano un uso diverso rispetto alla destinazione per cui erano stati pensati. Si giocava diversamente, si prendevano alcune parti del gioco da tavolo, quelle che devono essere i segnalini del percorso, ci si giocava diversamente, si prendevano i soldi e ci si facevano altri giochi variamente interpretati. Il gioco edificante in realtà era auspicabile, non era mai molto gradito. Fabio, buongiorno. Fabio è caduto. Marisa, buongiorno. Buongiorno, signore Coletti. La sento malissimo. Lo so, oggi tutti sentiamo male, è un problema del sentire generale. Pronto? Mi sente male. Però adesso un po' meglio. Adesso io la sento bene. Allora, volevo dirle che mio fratello, allora piccolo, parliamo degli anni dai 40 ai 50, avevo costruito una giostra, quelle che chiamavano il calcio in culo. Ma il calcio in culo è grosso, grande, come fa a costruire un calcio in culo in casa? Non sento. Non sento, trovo improbabile un calcio in culo costruire. Il calcio in culo è quella giostra con le catene che si va vorticosa, un meccanismo delicatissimo, pericolosissimo. Ha costruito un calcio in culo in casa, e quindi cosa faceva? Questa ruota da bicicletta veniva fatta ruotare e erano con i raggi venivano inseriti in modo che si potessero alzare. Alla fine di questi raggi aveva messo degli aeroplanini fatti con i canapoli. Quindi ruotando questi aeroplanini si alzavano. Ho capito perfettamente, un gioco di ingegno pericolosissimo, perché il raggio della ruota di bicicletta avrebbe potuto cacciare via gli occhietti degli innocenti bambini. Sarà costruito un calcio in culo, una giostra, che faceva girare questa ruota della bicicletta, e in fondo ai raggi aveva attaccato dei pupazzetti, e quindi era bellissimo, va bene, importante. Marina, buongiorno. Sono io adesso, prima pensavo che fossi io. Buongiorno, sì, dottor. Sì, più o meno siamo sulla stessa generazione. Siamo sempre, sì, Marina. Sì. Dunque, le dicevo prima, io e lei abbiamo un anno di differenza. No, non me lo dica, mi sparo. Sì, prego, allora. Sicuramente lei si ricorda del musichiere. C'era la scatola, un gioco da tavola, con una pianolina dentro da giocare. Era per me il più bel gioco che sia mai esistito. Eh sì, perché lo vedeva in televisione, i primi fortunati. No, a quell'età non lo vedevo, avevo 4 o 5 anni. Ma il musichiere era un programma televisivo. e c'erano i giochini, e l'ha portato Gesù Bambino, perché certo, figuriamoci chi altro poteva portarlo. E poi dopo invece è arrivata l'autopista, ma ero già grande, avevo già 12-13 anni, l'autopista della Postil con le curve, vabbè, quello, e quello mi ha rovinato la vita. Vabbè, guardi, c'è gente che a 13 anni se la rovina con maniere molto... La vita perché ho preso la mania solo più delle automobili. E quindi è diventata una guidatrice folle. Sì. Vabbè, Marina, attenzione quando passa per strada, perché ha educato la sua scorrettezza stradale sull'autopista da piccola. Fabio, buongiorno. Buongiorno. Lei cosa metterebbe? Ma allora, io ricordo e avevo anche la collezione dei soldatini Atlantic, che erano delle confezioni con dei, diciamo, della plastica prestampata, con questi soldatini che si staccavano e seguivano un po' quello che era la prima e la seconda guerra mondiale, con carri armati, sidecar, soldatini. C'erano anche le grandi rivoluzioni, c'erano i fascisti, i nazisti. C'erano le grandi rivoluzioni, poi sono passati ai tempi un po' più moderni, c'era anche, indietro c'erano anche gli indiani con diciamo la settima cavalleria, con tutti i vari soldatini, e c'erano anche i plastici, dei plastici disegnati dove c'erano montagne piuttosto che pianure con... dove si poteva praticamente gestire questi combattimenti. Sì, era il sogno di tutti, che occupavano molto spazio nella cameretta, però si giocava sì, seriamente. Però erano sì, con la fantasia, diciamo, si fantasticava, si ingegnava appunto queste battaglie, queste... Ecco, il soldatino oggi si usa poco, perché è stato soppiantato dal videogame, oggi uno gioca alle guerre. Sì, però facendo così la fantasia, secondo me, era al top, perché appunto tante volte non si aveva i soldi da comprare i plastici, perché costavano, e ci si accontentava con dei pezzi di polistirolo sagomati, con scaldati e sagomati con la fiamma, e colorati con i colori a tempera, naturalmente. E i colori a tempera, si facevano anche dei laghetti, perché c'erano anche appunto in tempi moderni c'erano anche, se non mi ricordo male, i carabinieri piuttosto che... Beh, noi ci giocavamo di nascosto, che ci beccavano con il presepe era perfetto per fare le guerre con i soldatini atlantici. Uno spostava un attimo i pastorelli, faceva naturalmente era un gioco clandestino e proibitissimo, ma togliendo i pastorelli lo scenario del presepe era un perfetto campo di battaglia. Jenny, buongiorno. Buongiorno. Io volevo ricordare la metti in tasca. Cos'era la metti in tasca? La metti in tasca era una bambola piatta, piccola, che si ripiegavano le braccia e le gambe, e si poteva mettere in tasca con i suoi vestitini, e si usava poi di nascosto sotto i banchi a scuola. Ah, un gioco clandestino, era chiaro gioco clandestino. Gioco trasgressivo sì, gioco soprattutto di nascosto era, dalla maestra. Ah, per giocare di nascosto hanno inventato questa subdola metti in tasca, che può sembrare in realtà qualcos'altro, ma in realtà era una bambola che si metteva in tasca, si apriva e ci giocavano le bambine. Si apriva, sì, era una bambola piatta, assolutamente piatta, si aprivano le braccia e le gambe, aveva i suoi vestitini e si giocava. E lei ci giocava. Si poteva portare dalle amiche, soprattutto si portava a scuola e ci si tirava fuori per giocare poi insieme. Beh, diciamo che di tutti i giochi questo è quello più originale, quello che più esce fuori rispetto ai canoni. Se dovessi dare un'idea, al Museo del Giocattolo sono soprattutto appassionate le più antiche generazioni. Non mi sono arrivate le consuete migliaia di telefonate da parte del pubblico giovane, frequentemente il pubblico giovane non ha più la percezione del giocattolo. Il fatto che si entri subito, istantaneamente, in una forma di gioco che richiede un supporto elettronico e ci proietta in un mondo parallelo, fa sì che non rimanga così impresso il giocattolo quanto rimane impresso lo scenario. Il retro game è il corrispondente del ricordo della bambola mette in tasca, dello scarabeo, del dolce forno. Se sento un ventenne oggi, c'ha quei bei videogiochi che si facevano con il computer, così rozzi, così poco definiti, ma sui quali ho consumato gli anni migliori della mia fanciullezza. Beh, ci sentiamo domani.